Progress, quando la tecnologia diventa per tutti. Come raggiungere un'organizzazione del lavoro che tiene conto degli obiettivi raggiunti e non dei cartellini timbrati? Nella nostra sezione siamo in 7 e con il nostro capo ieri ci siamo detti ci mettiamo tutti in videoconferenza questa sera dopo cena e ci facciamo la riunione, così nel pomeriggio stacchiamo alle 15 in ufficio. Basta timbrare, è roba passata. Alla mattina io entro alle 11, anche alle 12. Prima ci mettevo un'ora ad arrivare in auto in ufficio, adesso ci metto solo mezz'ora. Crescono le esperienze di aziende che aboliscono gli orari fissi e lasciano che i propri dipendenti si organizzino i tempi di lavoro con molta libertà. Sono i risultati il momento della verifica. Il cambiamento è una vera rivoluzione nel mondo del lavoro. Una vita senza cartellini timbrati era un privilegio dei grandi manager, mentre oggi le tecnologie informatiche ci propongono ambienti di lavoro virtuali. Sono possibili modalità di interazione molto sofisticate tra i dipendenti e pieno accesso anche da remoto a tutta la documentazione aziendale. I vantaggi sulla qualità della vita lavorativa sono grandi e anche la città ne guadagna. Alcuni dati che provengono da esperienze in Olanda, relative appunto a una sola grande azienda di 2.000 dipendenti, parlano di 17.000 tonnellate di CO2 in meno prodotte dall'insieme dei dipendenti. Progress vi aspetta domani alle 18.30 su Radio 24, in collaborazione con Ford.